Canto 22 della Divina Commedia Inferno di Dante Alighieri. Questa registrazione LibriVox è di dominio pubblico. Letto da Pierre. Canto 22. Io vidi già cavalier muover campo e cominciare stormo e far lor mostra, e talvolta partir per loro scampo. Corridor vidi per la terra vostra, o aretini, e vidi gir gualdane, ferir torneamenti, e correr giostra, quando con trombe, e quando con campane, con tamburi, e con cenni di castella, e con cose nostrali e con istrane. Né già, con sì diversa cennamella, cavalier vidi muover né pedoni, né nave a segno di terra o di stella. Noi andavam con i 10 dimoni, ahi fiera compagnia, ma nella chiesa coi santi ed in taverna con ghiottoni. Pure alla pegola era la mia intesa per veder della bolgia ogni contegno, e della gente che entro v'era incesa. Come i delfini, quando fanno segno a marinar con l'arco della schiena, che s'argomentin di campar lor legno, talor così ad alleggiar la pena, mostrava alcun de peccatori il dosso, e nascondeva in me che non balena. E come all'orlo dell'acqua d'un fosso stanno i ranocchi, pur col muso fuori, sì che celano i piedi e l'altro grosso, sì stavan d'ogni parte i peccatori. Ma come s'appressava Barbariccia, così si ritraean sotto i bollori. Io vidi, ed anche il cuor mi s'accapriccia, uno aspettar così, come egli incontra, una rana rimane e l'altra spiccia, e graffia can, che gli era più di contra, gli arroncigliò l'impegolate chiome e trasse il su che mi parve una lontra. Io sapea già di tutti quanti il nome, si li notai quando furono eletti e poi che si chiamaro attesi come. O Rubicante, fa che tu li metti gli unghioni addosso, sì che tu lo scuoi, gridavan tutti insieme i maladetti. Ed io, maestro mio, fa, se tu puoi, che tu sappi chi è lo sciagurato venuto a man degli avversari suoi. Lo duca mio gli si accostò al lato, domandollo ond'ei fosse, e quei rispose: io fui del regno di Navarra nato. Mia madre a servo d'un signor mi pose, che m'avea generato d'un ribaldo, distruggitor di sé e di sue cose. Poi fui famiglio del buon re Tebaldo, quivi mi mise a far baratteria, dichiarendo ragione in questo caldo. E Ciriatto, a cui di bocca uscia d'ogni parte una sanna, come a porco, li fe sentir come l'una sdrucia. Tra male gatte era venuto il sorco, ma Barbariccia il chiuse con le braccia e disse: staten là, mentr'io lo inforco. E dal maestro mio volse la faccia, dimandal, disse, ancor se più disii saper da lui prima ch'altri disfaccia. Lo duca: dunque, ordì, degli altri rii conosci tu alcun che sia latino sotto la pece? E quegli: io mi partii, poco è, da un che fu di là vicino. Così fossi ancor con lui coperto, ch'io non temerei unghia né uncino. E l'ibicocco: troppo avem sofferto, disse, e presegli il braccio col ronciglio, sì che stracciando ne portò un lacerto. Drag Ignazzo anch'ei volle dar di piglio, giuso alle gambe, onde il decurio loro si volse intorno intorno con mal piglio. Quand'elli un poco rappacciati foro, a lui, ch'ancor mirava sua ferita, dimandò il duca mio senza dimoro: chi fu colui da cui mala partita di che facesti per venire a Proda? Ed ei rispose: fu frate Gomita, quel di Gallura, vasel d'ogni froda, ch'ebbe inimici di suo donno in mano, e fe lor sì che ciascun se ne loda. Denar si tolse, e lasciolli di piano, sì come e dice, e negli altri uffici anche barattier fu non picciol, ma sovrano. Usa con esso donno Michel Zanche di Logodoro, ed a dir di Sardigna le lingue lor non si senton stanche. Ome, vedete l'altro che digrigna, io direi anche, ma io temo ch'ello non s'apparecchi a grattarmi la tigna. E il gran proposto, volto a Farfarello, che stralunava gli occhi per ferire, disse: fatti in costà, malvagio uccello, se voi volete o vedere o udire. Ricominciò lo spaurato appresso: toschi o lombardi io ne farò venire, ma stien le male branche un poco in cesso, sicché non teman delle lor vendette. Ed io, seggendo in questo luogo stesso, per un ch'io son ne farò venir sette, quando suffolerò, com'è nostruso, di fare allor che fuor alcun si mette. Cagnazzo, a cotal motto, levò il muso, crollando il capo, e disse: oh, di malizia, che egli ha pensato per gittarsi giuso! Ond'ei, ch'avea l'acciuole a gran divizia, rispose: malizioso son io troppo, quand'io procuro a miei maggior tristizia. Alichin non si tenne, e di rintoppo agli altri disse a lui: se tu ti cali, io non ti verrò dietro di galoppo, ma batterò sovra la pece l'ali. Lascici il collo, e sia la ripa scudo, a veder se tu sol più di noi vali. O tu che leggi, udirai nuovo ludo. Ciascun dall'altra costa gli occhi volse, quel primo cacciò fare era più crudo. Lo navarrese ben suo tempo colse, fermò le piante a terra ed in un punto saltò, e dal proposto lor si sciolse. Di che ciascun di colpo fu compunto, ma quei più che cagion fu del difetto. Però si mosse e gridò: tu sei giunto! Ma poco i valse, che l'ali al sospetto non poter avanzar. Quegli andò sotto, e quei drizzò volando su sul petto. Non altrimenti l'anitra di botto, quando il falcon s'appressa, giù s'attuffa, ed ei ritorna su crucciato e rotto. Irato, calcabrina della buffa, volando dietro li tenne, invaghito, che quei campasse per aver la zuffa. E come il barattier fu disparito, così volse di artiglia il suo compagno, e fu con lui sovra il fosso ghermito. Ma l'altro fu bene sparvier grifagno ad artigliar ben lui, e da mendue cadder nel mezzo del bollente stagno. Lo caldo sghermitor subito fue, ma però di levarsi era niente, si e viano invescate l'ali sue. Barbariccia, con gli altri suoi dolente, quattro ne fe volar dall'altra costa, con tutti i raffi, ed assai prestamente di qua, di là, discessero la posta. Porsero gli uncini verso gli impagnati, che eran già cotti dentro dalla crosta, e noi lasciammo lor così impacciati. Fine del canto 22.